Nella regione africana del Darfur, che si trova nello stato del Sudan, nella linea di confine con il Chad, continua l'emergenza causata dall'attacco dei miliziani Janjaweed. È assurdo distinguere le forze governative sudanesi e le milizie Janjaweed, perché sono la stessa cosa. I documenti dimostrano che le attività delle milizie non sono semplicemente tollerate, bensì appoggiate da alcuni responsabili delle autorità sudanesi, e l'accusa senza mezzi termini al governo di Khartoum del direttore della divisione Africa dell'Organizzazione Internazionale di Diritti Umani, Human Rights Watching. L'agenzia dell'ONU preposta, l'Alto Commissariato per i Rifugiati, UNHCR, ha stipulato un accordo con l'organizzazione non governativa InterSOS, attiva nell'area, per lavorare congiuntamente alla definizione della popolazione sfollata di questo lembo di terra di confine. Le stime parlano dai 30 ai 50 mila morti, dagli 800 mila ad 1 milione di profughi causati dalle scorrerie di milizie sudanesi, protagoniste di un vero e proprio genocidio. L'emergenza incombe nei numerosi campi installati dall'UNHCR nelle aree di frontiera tra Chad e Sudan. L'Africa rimane un continente martoriato dalle guerre. Sono ormai diversi anni, infatti, che si susseguono notizie preoccupanti sulla Costa d'Avorio. Dall'indipendenza, era il 7 agosto del 1960, fino al 1999 questa repubblica è stata considerata una nazione simbolo per stabilità politica e buoni rapporti commerciali con l'ex madre patria Francia. Fu Laurent Gbagbo, nel dicembre del 1999, l'ispiratore del primo colpo di Stato della storia nella Costa d'Avorio contro l'allora presidente Bédibié. Nelle elezioni presidenziali dell'ottobre del 2000, Gbagbo, un po' a sorpresa, vinse. Da allora il progetto politico di Gbagbo è sempre stato quello di consolidare il proprio potere politico utilizzando soprattutto la violenza. Negli accordi di pace detti di Accra Terzi dell'agosto scorso, a cui assistettero ben 12 capi di Stato africani e il segretario generale dell'ONU Kofi Annan, erano 3 i punti chiave fissati per la ripresa del dialogo e del processo di transizione: la modifica dell'articolo 35 della Costituzione ivoriana, che fissa i criteri di pura ivorianità su cui si basano i diritti di cittadinanza, l'effettivo trasferimento di numerosi poteri dal presidente Gbagbo al primo ministro Seyoud Diarra, il disarmo di tutti i gruppi ribelli e paramilitari, punti è stato rispettato dall'attuale presidente Gbagbo. Ad oggi è la piccola città di Boutou, situata al confine tra Liberia e Costa d'Avorio, ad essere protagonista della cronaca. Secondo le stime dell'UNHCR sono circa 10.000 gli ivoriani che hanno passato il confine con la Liberia per trovare un asilo sicuro. Sentiamo la portavoce italiana dell'Agenzia dell'ONU dell'Alto Commissariato per i Rifugiati, Laura Boldrini, che ci aggiorna sulla situazione della sua agenzia in due aree così calde dell'Africa, cioè la Costa d'Avorio e il Darfur. Sì, la situazione in Costa d'Avorio desta serissime preoccupazioni, perché sono circa 13.000 le persone già fuggite che si sono riversate sulla Liberia. Quindi va segnalato anche che una parte delle persone in fuga sono addirittura liberiani che erano rifugiati in Costa d'Avorio. Bisogna anche tenere presente che ci sono circa 70.000 liberiani rifugiati in Costa d'Avorio, che quindi a questo punto stanno anche considerando l'opzione di lasciare la Costa d'Avorio. Quindi queste 13.000 persone, la maggior parte di queste sono fuggite attraverso il fiume Cestos, quindi su delle canoe, e è arrivata in Liberia. Il problema della Liberia, specialmente di questa parte della Liberia che confina con la Costa d'Avorio, sono essenzialmente quelle dell'acqua, ma anche delle infrastrutture. Fornire aiuti è veramente difficilissimo, perché la Liberia, dopo 14 anni di guerra civile, ha le infrastrutture completamente disastrate, moltissimi ponti saltati, quindi si stanno portando gli aiuti adesso grazie agli elicotteri di UNMIL, che è la Nazione ONU in Liberia, e quindi si sta facendo questo trasporto via elicotteri. L'altro problema sicuramente è l'acqua, perché c'è poca acqua disponibile nella zona, e anche la sicurezza stessa. va tenuto presente che in questa zona di 45 chilometri, appunto, che divide la frontiera dei due paesi, ci sono diversi punti di entrata, quindi anche la registrazione dei rifugiati non è completamente facile, perché le persone entrano e spesso vanno direttamente nei villaggi dove ci sono parenti e amici, senza fermarsi nei luoghi di transito che sono stati istituiti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, specialmente a Butuo e quest'altro centro che si chiama Lagatuo, dove abbiamo fatto due centri di transito. L'auspicio è che questa crisi non sia una crisi lunga, per cui queste persone potranno quanto prima tornare a casa, anche perché la fragile situazione liberiana sicuramente subirebbe delle ripercussioni in negativo rispetto a questa crisi. La crisi potrebbe diventare una crisi regionale e quindi anche tutti gli sforzi che si sta facendo per riportare la Liberia fuori dalla guerra a un percorso di pacificazione verrebbero vanificati. E per quanto riguarda la situazione in un'altra area calda dell'Africa, che è il Darfur? La situazione in Darfur, come sappiamo, non è una situazione che sta presentando dei miglioramenti. Mentre appunto con il Sud si è arrivati dopo 21 anni di conflitto a un accordo di pace siglato pochi giorni fa tra appunto il capo dell'SPLA John Garang e Khartoum, altrettanti progressi non ci sono invece nel versante del Darfur, dove pare che il cessate il fuoco siglato quest'estate non viene assolutamente rispettato, dove vengono compiuti di nuovo violenze ai danni della popolazione civile e ultimamente anche rapimenti di sudanesi che appunto sono avvenuti mentre viaggiavano in autobus. Questo è avvenuto pochi giorni fa, un rapimento che ha causato anche in qualche modo la sospensione delle operazioni umanitarie per motivi di sicurezza. Quindi è difficile operare all'interno del Darfur, è difficile anche lavorare in Chad, sia per motivi logistici, anche qui, perché questa regione del Chad, dove ci sono 11 campi profughi dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, che ospitano circa 200.000 persone, sono nella zona più arida del Chad, quindi di nuovo un problema di approvvigionamento d'acqua. È anche vero che anche qui all'interno dei campi ci sono grossi problemi di sicurezza, quindi spesso scoppiano delle risse, delle tensioni, e ci sono stati anche in passato dei rifugiati che sono stati uccisi, e operare in questo clima non è facile sicuramente per nessuno. Allora ecco, temporaneamente ci sono anche delle sospensioni anche in Chad, che creano poi dei ritardi sulla tabella di marcia.